Ricordo la campagna di crowdfunding, 30 euro per 1000 ascoltatori, il nostro radio abbonamento, una campagna che andrà avanti fino in settembre. E andando sul sito della radio c'è il banner specifico con le varie modalità di adesione. Cominciamo a salutare Maya e Nicola Locci in Sardegna, Tabula Rasa in quel di Cortina d'Ampezzo, Cecilia Miradoli di Pindar, Marco Milanese di Disordine, Simone Scalise, la Dark Wave calabrese, Audio Chaos. E poi Alberto Clipper di MDMA, Mariano Virgia da Berlino, Alessandra e Giulia qui a Roma come il medico della peste. Dopo molto tempo torna tra noi Ant Christ del progetto Industrial Omicidio. E poi Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Un grosso abbraccio anche a Sisto Palombella, valente musicista di accordion e fisarmonica. Saluto anche Laura Spirit Crusher. E noi andiamo ad iniziare con l'ennesimo passaggio riguardante New State of Flux, la compilation ideata dalla Reverse Alignment, etichetta che, come ho già detto, fiancheggia la ben più nota Nesple Sounds Group, etichetta fondata da Raffaele Pezzella. E proprio di lui parliamo questa sera, lo facciamo attraverso questa traccia dal nome Super Luminal con il suo progetto Sonologist. un ultra tappeto dronico e siderale, un vero viaggio nell'interspazio, approccio musicale che spesso caratterizza i lavori di Sonologist di Raffaele Pazzella, ricordiamo artista proveniente da Napoli, nonché fondatore di tutta quella di quelle etichette che da queste parti si conoscono, la S-Plate Sounds Group, la 8 Tower, la Reverse Alignment, che ha prodotto anche questa compilation New State of Flux, la Zero K. E vado anche a segnalare, non a caso, l'ultimo lavoro di Sonologist, rintracciabile chiaramente sul appunto sull'etichetta credo 8 Tower, anzi no, lui è uscito in questa circostanza anche con la Cold Spring, quindi un bel colpo operato da Raffaele Pezzelle, quindi sul profilo Bandcamp comunque o di Sonologist o della Cold Spring si può trovare questo ultimo lavoro. Vado ad abbracciare Amtec Alex Marenga, collaboratore anche di Musica Macchina, ormai anche il sottoscritto è entrato nella squadra, ricordiamo Musica Macchina, ogni sabato a partire dalle ore 21 con il buon H501L e altri personaggi. Saluto Francesco Cornello, Paolo Contucci da Roma Est. E dunque dai viaggi spaziali di Sonologist andiamo invece nei viaggi attraverso il mondo delle cover, terreno come ho già detto infido e accidentato, ma quando si tratta di Gianluca Becuzzi si va più o meno sul sicuro. Infatti l'ultimo suo lavoro si chiama Deeper, che ha alle spalle anche la benedizione di questa etichetta svizzera indipendente dal nome Lucesia di Bellinzona, fondata da Sasha Rovelli e Neboi Sabacic. Deeper con queste dunque versioni di più o meno cavalli di battaglia degli anni 80, 90 e 70. Questa sera una curiosa operazione di unione di due tracce, ossia Funerale a Praga di Fausto e The Honor of Silence dei Death in June. Chissà perché poi Becuzzi ha deciso di unirle, magari ce lo dice anche in diretta, già che ci sta ascoltando. Successivamente ci ascolteremo invece di Overload, una delle migliori tracce dei vecchi Talking Heads, presenti in Remain Light, quel capolavoro prodotto da Brian Eno. Capolavoro che uscì ormai ben 42 anni fa. Thank you. Due mirabili interpretazioni di Gianluca Becuzzi di vecchi cavalli di battaglia appartenenti a questa Deeper, lavoro uscito nel 2022. E questa sera funerale a Praga e The Honor of Silence, accomunate effettivamente da simili accordi di chitarra. Teniamo conto che tutte le cover di questo album sono fatte in maniera scarna, chitarra, voce, qualche linea diciamo ritmica e poco altro, e invece di Overload dei Talking Heads c'è soltanto le varie sovrapposizioni vocali. Uno dei punti di forza di Gianluca Becuzzi, ci ha anche dedicato dei dischi in passato, Voices su tutti. Di Overload, anche personalmente, una delle tracce che più ho apprezzato dei Talking Heads. Remain Light rimane per me il migliore album dei Talking Heads, e la produzione di Brian Eno in questa circostanza è stata efficacissima. Saluto Sara K.O. Fontana e Dario Rigg di Progetto No Name. E adesso ci andremo a tuffare in questa performance tenuta qui a Roma l'anno scorso, una performance che porta il nome di Carnica, ed il progetto che la mette in attuazione si chiama Nido. Nido ovviamente di Jonita Prifty, ormai abbastanza popolare da queste parti. Ci siamo ascoltati praticamente tutta la performance, anzi direi tutta, e la concludiamo questa sera con gli ultimi due episodi dal nome Cosmo Emerso e Cellula Erotica. Vista a mezzogiorno in pasto entro notte di caverna, rescindere entro notte di caverna, rescindere bruciature dal gelo. Dalla massa, lacustre, fresche, croste di carne, deforme, incuneato nell'onda epicentro di elastica energia. Faglie sfregate, pressione a carico di rottura, di serrare la frattura dorsale, cintura di fuoco, sprigionare fremiti di cellula erotica. Dal termine di un viaggio per tubo. Queste meccaniche seriali ed elettroniche così pulsanti erano di nido, questa era carnica, questa performance romana. Con l'immaginario della prima guerra mondiale, ricordiamo le carniche, queste figure femminili di supporto, diciamo, all'esercito italiano nella prima guerra mondiale contro gli austriaci. Ed è vero come dice Antichrist, che soprattutto come Panzonic, il riferimento può effettivamente avverarsi. Progetto dunque al femminile molto interessante che lasciamo e andiamo, mentre vado a salutare Dario Arrighi, andiamo da Cristiano Deison, Magnetic Debris, Ultima Fatica, attraverso la dissipazio e quindi l'impronta proprio sperimentale, d'avanguardia, ma anche di ritmi spezzati e il tratto decisivo che accomuna molti lavori di questa etichetta di Nicola Quiriconi. Dunque, Debris volume 2, ci ascoltiamo dal primo CD una traccia dal nome Reverso. Thank you. frontiere interiori affrontate e superate attraverso un viaggio intimo, veramente armonico, vibrazionale. Materia maneggiata con perizia da Cristiano Deison, da questo Magnetic Debris volume 1-2, masterizzato da James Plotkin. Tracce che poi sono state ideate originalmente tra il marzo 2016 e l'ottobre 2018 in varie location, usando anche nastri preparati, pezzi di metallo, corde e vari aggeggi elettronici. Cristiano Deison, tantissima produzione al suo attivo. 21:53, questa è Radio Onda Rossa e queste prove tecniche di trasmissione ogni mercoledì sera sino alle 22:30. 0649 1750 il contatto telefonico e www.ondarossa.info per sfruttare anche il nostro streaming e leggere le preziose notizie, corrispondenze e quant'altro contenute poi nel sito stesso. Ora una collaborazione vasta tra Mulo Muto e Black Lava, una collaborazione che ha prodotto Words Corroding Under Xenomorphs Eyaculations, tra doom metal, noise, un prodotto ben riuscito che questa sera apprezzeremo attraverso Praying for Sodomitic Mercy in the Face of Extinction. La traccia più lunga, quasi 8 minuti di questo loro ultimo album.